sentiti che vieni inamidati, tutti tutti diduriti, se ne vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, sono merda se calzone, lurili fascisti, domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana, ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale, al capitale, tutto il giorno, sì signore, non ti spiace, ho fatto male, cala la notte, messi a posto le cartelle, leggono i cartoni con due comode pretelle, si rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra, drogato, negro, crocio, comunista, pervertito, terrore, manca bestia, sadomaso, travestito, è inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai spraccato, 20-1 è la tua forza, fascio e fame, ti nascondi e dalle spalle ti colpisci con le lame, non da vivere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente, io c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, sta a sentire per me schifoso, tu non mi fai paura, io ti mando a riposo, c'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere, violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare, di campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione deglatante, miserabile, potente di chi non può farti niente disprezzato dalla gente, io c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, servi dei servi dei servi, nulla può smentire la natura di bastardi generati come automi o peggio beni di consumo, sistematicamente merda, vecchi vende immagini, ricicla stereotipi e reti unificate per la brava gente, l'informazione di regime non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi a guardia dello Stato è il nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua idiozia, 99 forse giù, antifascismo militante senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è fascista morto, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero,